viaggi in ogni modo, da ogni lato ho prospettiva tu, perché se manchi stringe un nodo e il respiro non mi ritorna più. Perché non chiedi mai perdono, ma se mi abbracci non ti stancheresti mai. E poi sai fare morire un uomo con l'innocenza del pudore che non hai. Sei solo tu nei giorni miei, sempre più dentro me. Sei solo tu e dimmi che sono quest'ora anch'io per te. Perché sei bella che mi fai male, ma non ti importa o forse neanche tu lo sai. E poi la sera vuoi fare l'amore ogni volta come fosse l'ultima. Sei solo tu nei gesti miei, sempre più oramai. Sei solo tu dentro me, tutto il resto invisibile. Cancellato ormai, conquistato dagli occhi tuoi, quel che resta poi. Sei solo tu nei giorni miei, sempre più dentro me. Sei solo tu.